Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti e Traghettatore, ben trovati per questa puntata del weekend di Ferry Boat. Cominciamo con una solidarietà, con un'iniziativa no profit festeggia l'unità. Da ieri e fino a domani Torino sarà il punto d'incontro di migliaia di associazioni di volontariato, sono previsti più di 60 gazebo per raccontare le storie di solidarietà. Sarà presentato anche, ed è una novità assoluta in Europa, il Museo Diffuso del Sociale, una bellissima parola quella diffuso, in realtà si spiega con un patrimonio distribuito sul territorio nazionale, non come un luogo specifico da visitare, ma con un sistema di percorsi, di realtà e di storie con cui si può entrare in contatto in molte parti e in molte maniere. È stato inaugurato a Milano /A.Habitat per Azioni. Già nel nome potete capire che c'è tanta di quell'innovazione di cui parla e anche di attenzione al mondo ambientale e sociale, l'Habitat. Con noi Giovanni Petrini, che è il responsabile di /A.Habitat per Azioni, a cui chiediamo da subito che cosa vuol dire quella frase che ci ha colpito nel comunicato stampa, co and networking. Questa è la missione di /A.Habitat. È praticamente un luogo, uno spazio che è pensato per essere un ecosistema che ha due funzioni. La prima è quella di ospitare delle imprese che condividono l'attenzione per l'ambiente e per il sociale senza farle pagare affitti, dandogli servizi condivisi, quindi con un abbassamento dei costi. Ma mettendole insieme, e questo è il co-working, si offre anche come l'occasione per iniziare a sviluppare dei nuovi progetti per aiutare reciprocamente questa realtà a crescere. Perché le piccole imprese innovative legate al mondo dell'ambiente sono tante, ma spesso soffrono un po' della solitudine. Ecco, quindi noi come Avanzi abbiamo preso questa sede e stiamo ospitando 15 realtà, ma a regime saremo 25, diversificate per settori di attività, dalla comunicazione all'audit energetico, per fare sistema, per fare distretto e in questa maniera riuscire a essere più forti e più incisivi. È bella, per modo di dire, ma in realtà è brutta anche la evocazione della solitudine di queste imprese. La verità è, condivido la tua posizione, ti chiedo di approfondirla, che effettivamente nel nostro paese, assieme a tante altre carenze che tutti i giorni siamo costretti ad evidenziare, manca proprio una visione in questo ambito. Cioè, queste imprese valgono tanto quanto quelle che non innovano, tanto quanto quelle che inquinano. Non c'è un percorso preferenziale, non c'è un sostegno vero. Assolutamente, non ci sono sgravi, non ci sono facilitazioni. L'Italia è un paese che è ricchissimo nei territori di idee, di fiori che nascono e che sono nuovi. Il problema è che poi non c'è un contesto che li protegga, non c'è una normativa, una politica che stia attenta a queste esigenze e quindi gli permetta di diventare magari un giorno un bosco. Ecco, allora iniziamo a organizzarci tra di noi, perché l'unione fa la forza e quindi magari unendo tanti fiori si diventa una bella aiuola e allora si è un po' più forti, un po' più resistenti. Quello che mi pare di capire è uno dei primi risultati di /A.Habitat è che si abbattono notevolmente i costi di strutture, di servizi, tutto ottimizzato, così? Sì, senza dubbio, condividere la segreteria, le linee telefoniche, il collegamento a internet, le sale riunioni, ma anche i fornitori è un grossissimo aiuto. Quello che noi stiamo mettendo a disposizione dei barrati, cioè le realtà che ospitiamo, è per esempio un panel di fornitori sostenibili, dagli stampatori all'energia elettrica, che possono essere da loro scelti, non è obbligatorio, anche se chiaramente il percorso deve essere verso la sostenibilità, e anche questo è un grandissimo risparmio di energia, perché ciascuno di loro avrebbe grosso difficoltà, spenderebbe molto tempo nel trovare questi contatti. Bene, a proposito di contatti, un indirizzo dove potervi trovare e chiudiamo? Online è www.avanzi.org, ma il barra A è in via Ampere 61 /A e a Milano, in grazie. Vasita Studi. In bocca al lupo è proprio il caso di dirlo. Grazie Giovanni Petrini. Grazie a voi, grazie mille. Chiudiamo con una notizia che ci riporta nell'universo no profit, una ricerca in realtà promossa dall'Istituto Italiano delle Donazioni che lascia intravedere alcuni aspetti curiosi, intriganti ma anche significativi dell'attività di queste associazioni no profit. Per esempio, quanto viene destinato realmente alla mission per cui si raccolgono i fondi e quanto invece va a finire in costi di struttura. Le grandi destinano molte risorse alla mission, l'81%, le medie 79%, le più piccole sono quelle che sacrificano di più la raccolta fondi, il 76% va alla mission, il resto costi di struttura e di fondi. Questo è tutto per la puntata del weekend di Ferry Boat. Vi ricordo va in onda alle 6.50 e alle 13.55. Scrivete a ferryboat@radio24.it per segnalare le vostre iniziative, grazie alla collaborazione in redazione di Anita Panizza e in regia di Roberto Scaltritti. Alla prossima.